Parliamo di musica e di una serata che per una volta ci vede protagonisti e quindi per una volta facciamo anche un po' di autopromozione. Venerdì prossimo ai 300 Scalini ci sarà Inondazioni Sonore. Per parlarne meglio siamo al telefono con Mauro che è appunto che è con noi e saluto, buongiorno. Ciao direttore e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko e grazie intanto dell'invito. No, grazie ovviamente a te e ricordiamo i contributi sonori di Mauro ed Erika il mercoledì a Radical Pop. Però insomma non siamo qui per parlare del lavoro ordinario ma di questa serata che ci sarà appunto venerdì prossimo 21 luglio. Che cos'è Inondazioni Sonore? Allora, Inondazioni Sonore è una serata che intanto si tiene ai 300 Scalini, che è uno spazio bellissimo e in questo periodo soprattutto fresco, quindi già quello è un incentivo ad esserci. È una serata che unisce la musica di due band del territorio, due band bolognesi, a un talk, un incontro su un tema d'attualità molto importante che è quello della crisi, anzi della catastrofe climatica. Infatti nel titolo abbiamo cercato di infilarci dentro tutti e due i momenti, diciamo così, della serata con Inondazioni Sonore. Parliamo delle inondazioni, quelle brutte, che apriranno la serata. Allora, si inizia alle 19 con appunto questo incontro tenuto da organizzare da Radio Città Fujiko con Gabriele Bollini, che è un urbanista, è un docente di Unimor ed è relatore della proposta di legge RECA contro il consumo di suolo per l'ambiente. È uno dei relatori, quindi insomma un personaggino non da poco. Poi c'è Lorenzo Tecleme, che è un attivista di Fridays for Future, oltre ad essere un giornalista, quindi comunque personalità molto importanti. Sì, ha curato anche un libro che si intitola Guida rapida alla fine del mondo, è stato anche nostro collaboratore, insomma giochiamo un po' in casa. Questo alle 19, diciamo, nella parte sottostante, giusto? Nella parte sottostante dove c'è anche il bar, quindi c'è uno spazio ampio, ombreggiato e molto bello in cui si può anche bere birre a prezzi popolari mentre si ascolta appunto questo incontro. Poi la serata invece evolve con Inondazioni Sonore più positive, con i concerti e anche qui dici tutto. Ma allora, appena dietro lo spazio dell'incontro si sale un pezzettino ancora più in alto in collina con vista San Luca, quindi è sempre molto bello. Ci sarà il concerto degli E, che è il gruppo di cui faccio parte anche io, e facciamo una sorta di punk rock demenziale dalle 21, e a seguire ci saranno i Boomers, che fanno invece un blues rock un pochino più di livello, possiamo dire, musicalmente. Non ti sminuire così, dai. No, nel senso musica un po' più elevata, dai. Ecco, non nel senso fatta meglio, ma più elevata come genere. Come genere rispetto, ok, al punk rock demenziale, ok. Tutto questo ha ingresso offerta libera, poi troverete anche il banchetto di Radio Città Fujiko. È una domanda che alcuni mi pongono spesso, come si arriva ai 300 Scalini? Ecco, allora, visto che è anche una serata che parla di clima, vi sconsigliamo la macchina perché intanto inquina. Secondariamente il parcheggio lì fondamentalmente non c'è, c'è poco posto per parcheggiare. Da Villa Spada in 10-15 minuti a piedi si arriva al Parco del Pellegrino, si fa tutta Villa Spada, un pezzettino sulla strada piccolo e poi si continua nel prato, quindi è anche carina la passeggiata, in 15 minuti da Villa Spada si arriva. Anni fa organizzavano anche il pedibus, ma credo che quest'anno non ci sia, altrimenti c'è l'autobus per Ravone, credo sia il D, che ferma un po' più vicino, però da lì sempre un pezzettino a piedi comunque va fatto, ma ne vale la pena. Certo, così appunto uno si allena anche un po' e poi va al fresco e meglio di così non si può fare. E allora ricordiamo l'appuntamento venerdì 21 luglio, dalle 19 prima appunto questo dibattito, questo incontro, a seguire il concerto degli E e dei Boomers ai 300 Scalini per Inondazioni Sonore. Grazie mille Mauro. Grazie mille direttore e a venerdì.